You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare e non avvanvera contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Buona serata da Valentina Furlanetto, benvenuti a questo appuntamento che parla di cucina e identità sulle frequenze di Radio 24. E questa sera cucina medio orientale per noi, perché abbiamo due gradite ospiti, due giovani donne, cuoche, blogger, molto giovani, molto preparate. Ma prima di presentarvele vi faccio sentire un breve estratto di un trailer di un film documentario girato da un regista australiano, Trevor Granham, che è stato presentato l'anno scorso, il cui titolo è Fate l'humus, non la guerra. The troubled checkpoint dividing Israel's capital, Jerusalem, from the Palestinian West Bank. Today it's just another battle in a divided land, a home claimed by both Arabs and Jews. But wait a minute. It's not just a battle over land. I'm here to lift the lid on another war raging in the kitchen. But this war has no soldiers, bullets, rockets or tanks. Just chickpeas and hummus. Crema di ceci, pasta di sesamo, succo di limone, un pizzico di cumino, nulla di più semplice nella ricetta dell'humus, ma solo in teoria, perché intorno a questa ricetta in Medio Oriente si è scatenata una vera e propria guerra. L'antico piatto è israeliano, palestinese, libanese, turco, siriano, ogni popolo ne rivendica la paternità. Pensate che addirittura nel 2008 l'Associazione Nazionale degli Industriali Libanesi aveva deciso di citare in giudizio Israele in un tribunale internazionale per aver rivendicato la paternità di piatti come appunto l'humus. Una storia questa del film documentario divertente ma anche seria, una guerra culinaria che nasconde una vicenda più grande, come sappiamo, attraversata da antiche rivalità e antichi anche rancori. Allora, insomma, intorno alla cucina ci sono anche delle rivendicazioni. Noi questa sera le lasciamo da parte, acquistiamo un tono più cordiale, più leggero, per parlare però con due ospiti che arrivano da quella parte di mondo, almeno culturalmente. Sono Fidè Abumantia, buona serata. Buonasera. Fidè è una giovane donna palestinese che ha vissuto e studiato in Italia, ha fatto esperienze prestigiose che poi ci racconterà, e ha fatto del cibo anche la sua bandiera, no? Poi ci racconterà perché. E poi Benedetta Jasmine Guetta, buonasera anche a lei. Buonasera. Grazie per essere con noi. Benedetta è una giovane donna italiana che si occupa di un blog insieme a un coetaneo, labna.it, il blog di cucina ebraica. È così, Benedetta? Allora, innanzitutto, siccome questo è un invito a cena, avrete portato dei piatti. Fidè, qual è il piatto di questa sera? Maklube. Si tratta di un piatto unico a base di carne, verdure e riso, quindi un piatto completo. Un piatto che si gusta a Ramallah, quindi, dove lei abita? Un piatto che si gusta in tutta la Palestina, comunque, da Hebron, Jenin, più nord, a Gaza, in tutta in tutta la Palestina questo piatto si gusta. Come mai questo piatto invece di altri? È una scelta che è sentimentale o per una questione più culinaria o di identità? Sono cresciuta a sentire l'odore di questo piatto. Chi lo cucinava? La nonna, la mamma? La mamma. Ma ancora comunque il piatto preferito per le feste, per insomma gli incontri più famosi, diciamo, che si fa dappertutto. Benedetta, invece lei che cosa ci ha portato? Cosa mangiamo stasera? Io, siccome è sabato sera, vi porto un piatto tipico del sabato ebraico, il Shabbat, che è la challah. La challah è un pane dolce che appunto si consuma, si benedice, si consuma il venerdì sera, ed è diciamo molto simile al pan brioche, per darvi un'idea, ed è proprio un piatto tipico della tradizione. Non esiste praticamente una festa ebraica esclusa la Pasqua nella quale non si consumi questo pane, perché è il pane che si benedice appunto in occasione delle feste. È un pane che io trovo delizioso e che mi piace molto preparare, fa proprio parte della mia routine della settimana. Io tutte le settimane preparo questo pane. Fide, quello che dicevamo all'inizio, no? Che ci sono dei piatti che sono un po' contesi, quello dell'hummus è uno di questi, no? E la sua, ad esempio, di occuparsi di cucina è anche una scelta politica. E certo, io ho scelto di parlare di cucina per parlare della Palestina, dell'esistenza della Palestina attraverso questa cucina. E parlando dei piatti, quindi io parlo della terra, dei prodotti che si coltivano nella terra, della trasformazione di questi queste verdure, questi prodotti che vengono coltivati in questa terra, tra cui hummus che lo coltiviamo noi nella nostra piccola terra vicino a Hebron, lo coltivano anche altri contadini, Asimin, lo coltivano in tanti posti in Palestina. Quindi questa, la terra dove siamo, quello che ci ha dato la terra l'abbiamo trasformato, per questo e può essere anche fatto in altri paesi sicuramente, perché si fa in Siria, in Libano, in Giordania, perché in questa area comunque c'è la stessa... Sì, la stessa cultura, insomma, esatto. Lo stesso hummus, diciamo noi. Senta, questo in realtà, non so se qualcuno ha l'occasione di vedere su YouTube gli stralci di questo film, è molto divertente ed è molto carino il tono, no? Ironico, eccetera, per parlare di un argomento ovviamente serio. Benedetta, ma esiste una cucina ebraica? Perché poi in realtà dipende anche di quale paese stiamo parlando, no? Diciamo che io quando faccio i miei corsi di cucina comincio sempre dicendo che in una certa misura non esiste un'unica cucina ebraica, in parte perché se ci pensi non è una cucina, cioè è una cucina in una certa misura legata al territorio, in un'altra misura assolutamente legata solo alle persone che la preparano. La nostra cucina, per esempio, a seconda di qual è il tuo paese d'origine, se sei un ebreo che viene diciamo dal Mediterraneo o se sei un ebreo che viene dai paesi dell'Europa del Nord, cambia radicalmente, perché cambiano gli ingredienti che il territorio offre, cambiano appunto le tradizioni, e la nostra cucina appunto viene molto influenzata dal territorio che ospita gli ebrei che la cucinano. Quindi gli ebrei ashkenaziti sono quelli dell'Europa dell'Est, prepareranno piatti molto più simili a quelli che si preparano in Russia, in Polonia, quindi con a base di pesce, patate, ingredienti più poveri. Gli ebrei che vengono dall'area del Mediterraneo, quindi dall'Africa, dalla Spagna, preparano invece cibi molto più colorati, molto più simili a quelli che abbiamo per esempio anche noi in Italia, quindi con ingredienti sostanzialmente diversi da quelli che sono invece appunto per esempio la cucina dell'Europa dell'Est. Quindi no, non esiste una cucina ebraica in senso stretto, esiste una cucina degli ebrei che l'hanno appresa dove hanno avuto modo di vivere nel tempo in passato. Dalla Russia al Maghreb, dalla Spagna all'Italia, la cucina ebraica raccoglie sotto a un'unica definizione ricette tipiche dei paesi molto diversi. Nel corso dei secoli, gli ebrei hanno mangiato e vissuto un po' ovunque e hanno semplicemente fatto proprie alcune ricette, le hanno rielaborate e poi portate con sé, fino in America o in Israele, dove si sono contaminate a loro volta con la cucina locale. Il bagel tipico newyorkese, ad esempio, è una ricetta dell'Est Europa arrivata negli States con i primi immigrati ebrei. Mangiare ebraico può voler dire trovarsi davanti una carpa in agrodolce come un piatto di riso persiano. Fortunatamente, quasi mai contemporaneamente. Le tradizioni sono diversissime e non hanno nulla in comune a livello di sapori, ma condividono tutte, e da migliaia di anni, le stesse regole, quelle della kasherut. Kasher significa letteralmente adatto, permesso, e contraddistingue tutti i cibi che possono essere mangiati dagli ebrei osservanti e le regole giuste per cucinarli. Non sono kasher il maiale, i pesci senza squame, i crostacei, ma anche le ricette che mixano latte e carne. Ma i prodotti certificati kasher sono un vero business. Si stima che solo il 14% delle vendite di questi prodotti avvenga per motivi religiosi. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. That's the glory of love. Benedetta, allora un gran successo per questi prodotti, anche dal punto di vista economico. Sì, diciamo che la cucina, gli ingredienti kasher danno un'idea di sicurezza, danno un'idea di un prodotto che è stato, diciamo che i prodotti kasher ti danno la certezza di essere stati fatti, tra virgolette, con tutti i crismi. I prodotti certificati kasher di solito non hanno additivi, non hanno ingredienti, tra virgolette, strani. Sono prodotti buoni, come potrebbero essere, diciamo, il bio, altra grande, è ovviamente una questione di marketing, però in questo specifico caso posso tra virgolette garantire che in effetti c'è della sostanza sotto, nel senso che vale la pena, secondo me, in molti casi di scegliere ingredienti kasher. In America, per dire, quasi tutte le cuoche usano quotidianamente il sale kasher perché è un sale migliore di quello normale. Sono proprio dal punto di vista della selezione degli ingredienti, in molti casi, degli ottimi prodotti. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Fide, la sua esperienza in Italia com'è nata? Lei è arrivata in Italia per studiare? Io sono arrivata in Italia per prima cosa per fare un corso di cucina italiana, insomma, conoscere la cucina italiana da vicino. Ha studiato prima a Gerusalemme, no, cucina, e poi è venuta in Italia e ha fatto delle esperienze significative in Italia come chef, no? Ce le racconta? Sì, comunque ho avuto il piacere, comunque ero molto contenta di lavorare in un ristorante stellato dalla famiglia Alaimo a Padova. Lì proprio è stata un'esperienza molto bella, dove ho imparato tantissimo. Beh, non capita tutti i giorni di essere parte del team Alaimo, che è un grandissimo chef stellato appunto a Padova. È stata 8 anni in Italia, no? E ha studiato all'Università di Padova, si è laureata in Scienze e Cultura della Gastronomia e della Ristorazione, poi ha fatto anche un master. In questi 8 anni ha vissuto con una famiglia italiana? Certo, sì, è ancora questa famiglia italiana è la mia famiglia. Io ho 2 famiglie, una famiglia palestinese e una famiglia italiana. Allora, sentiamo proprio qualcosa di più sulla cucina palestinese. La cucina palestinese viene suddivisa in base a 3 regioni principali. Quella della Galilea è molto simile al Libano. In Cisgiordania i cibi sono molto pesanti e diversificati, e i piatti tipici contengono riso, pane non lievitato e carne. La striscia di Gaza, essendo in prossimità del mare, propone una cucina basata sul pesce. Presenta molte influenze egiziane. Gli ingredienti solitamente utilizzati nella cucina palestinese sono pesce, carne di pollo e verdure. La frutta fresca e le arachidi sono utilizzate nella cucina quotidiana. così come le diverse varietà di pane sfornate, cioè la pita, il kubz e il markuk. Con la carne vengono spesso servite insalate e salse ricavate da verdure o dai ceci, come ad esempio l'hummus, una sorta di purè di ceci, il baba ganoush, sformato di melanzane, o la panna acida. Il tè nero è una bevanda consumata nell'arco della giornata, accompagnato da dolci come il baklava o l'alva. La tradizione palestinese in cucina consiste nei seguenti cibi: le mese o masa, una varietà di antipasti come l'hummus, il baba ganoush servito con un formaggio molto duro, l'aknavi, il rumania, uno stufato di verdure con semi crudi di melograno, melanzane e pasta di semi di sesamo, aglio, peperoncino, cipolle e lenticchie, il fucarit adas, lenticchie cotte lentamente con delle erbe, fiocchi di peperoni rossi, zenzero e aglio. Benedetta, invece il suo blog, insomma, ha molto successo. Si chiama labna.it, che è nato nel 2009 per parlare di tutto, per parlare di cucina, ma di ogni tipo di cucina. Nel tempo si è evoluto, direi più per l'interesse dei lettori che per una mia, diciamo, intenzione, diventando sostanzialmente il blog di cucina ebraica in Italia, perché non ne parla, è un argomento non molto conosciuto. Il mio progetto in Italia appunto era parlare di cucina in generale, ma c'è molta curiosità verso la cucina e la cultura in generale ebraica, e quindi a un certo punto ho scoperto che raccontare le ricette della mia tradizione, che di fatto è una tradizione diversa da quella italiana, mi permetteva di condividere e di appunto raccontare aspetti di una cultura che in Italia di fatto non è molto conosciuta. Gli ebrei in Italia ci sono da secoli, ma non tutti appunto conoscono le nostre usanze, le nostre tradizioni e la nostra cucina, che a ben pensarci invece, soprattutto se pensiamo a Venezia, a Roma, è un elemento fondamentale della cultura gastronomica italiana. Piccolo, ma sostanziale. Beh, è molto vero, insomma, pensiamo soltanto ai carciofi alla giudia. Esatto, se pensi ai carciofi alla giudia, ma ci sono... Certamente, anche a Venezia, giustamente. Anche a Venezia, ci sono tantissime altre ricette e uno le dà in qualche modo per scontate, ma di fatto appartengono a una tradizione che non è quella strettamente italiana, ma è un miscuglio. Certo, lei ha una formazione però di altro tipo, ha una laurea in lettere, no? Come mai questa passione, questo interesse per la cucina? Io ho sempre coltivato l'interesse per la cucina, perché nella cultura ebraica la cucina è una parte fondamentale della vita di una persona. La vita ebraica è scandita dalle feste, che a loro volta sono caratterizzate ognuna da specifici piatti, quindi in realtà uno praticamente non può essere davvero ebreo se non si interessa della propria cucina. In quasi, appunto, come dicevo, in tutte le nostre feste ci sono degli ingredienti fondamentali che raccontano una storia, che raccontano una tradizione, e quindi la cucina mi viene del tutto naturale, sono cresciuta con questa cucina. Mama, I have bad news. I was stuck in the elevator with this hot chick. Sit down, mama, sit down. 'Cause your son fell in love with the G. Fide, allora questo è un rap, non so se lo conosce, di un gruppo palestinese, un mix di pop, di calore mediterraneo, impegno politico, si chiamano Dam, e come avete sentito questa canzone si intitola Mamma mi sono innamorato di un'ebrea in ascensore, lei scendeva, io salivo. È molto divertente, anche questo ovviamente ha un profilo molto ironico. Sì. Io non lo conosco purtroppo, la rap non è molto... Non li conosce. Tanto, no. Quali sono, Fide, le sue i suoi progetti futuri in Italia e anche a Ramallah, dove vive, i suoi progetti lavorativi, intendo? Allora, io lavoro qui a Ramallah per un progetto comunque molto interessante, dei prodotti, riguarda anche non la cucina, ma riguarda i prodotti agricoli in Palestina, quelli baladi, quindi autoctoni, e con i sementi autoctoni della Palestina. Lavoro con una ONG italiana e sui prodotti non ne certifichiamo, ma prodotti senza chimici, quindi prodotti biologici. E sto lavorando su questo. È molto interessante. Rispetto a questo, forse diciamo che i prodotti palestinesi sono meno conosciuti, forse non hanno un marketing così efficace in questo momento. Magari, ecco, su questo c'è qualcosa da fare in più, no? Per certificarli e per diffonderli anche, perché diventino parte anche della cultura negli altri paesi. Certo, infatti tante stiamo cercando a lavorare su questo, ma comunque i costi, ci sono tanti ostacoli, come i costi comunque delle certificazioni. Lavoro con contadini molto piccoli e quindi loro non hanno i soldi per sostenere queste certificazioni. Certe cose le vendono all'estero, tipo lo Zatar, che è molto famoso, e tutti e quelli che vengono in Palestina lo comprano, e adesso in certi negozi, soprattutto nei negozi ecosolidali, si trova lo Zatar, si trovano i datteri e si trova il maftul, che assomiglia al couscous del nord dell'Africa, ma più grande, come tutto è leggermente diverso come ingrediente, il modo di cucinarlo è anche diverso. In Italia che tipo di progetti intende portare avanti? Allora, in Italia verrò questo ottobre, vado a Terra Madre ovviamente, mm-hmm. E poi in Italia ho fatto dei corsi di cucina, e vengo spesso a fare dei corsi di cucina palestinese agli italiani. E continuo comunque con i miei progetti. C'è un interesse allora da questo punto di vista? Sì, c'è un interesse proprio. È un interesse per la cucina palestinese, ma un interesse anche per conoscere altra cucina. Per me il cibo è uno strumento di scambio culturale comunque. Elevator. We face some nightmares. She shared her dreams, and I shared. She wanna be a pilot, search the sky. My dream is not to be searched. Every time I fly, be ambitious, she said. If you want, it's not a legend. Herzl said it while standing on the balcony. For she's all I said. I'ma use that saying soon as they allow me to build a balcony. Build a house, invite you to my room. Play in the umbre, mich zu have a band. Kultum, and boom, I will take you to heaven. All she heard was boom and heaven. Benedetta, qual è il piatto palestinese che ama molto? Per l'appunto avrei detto il hummus se non avessimo già discusso. Quindi l'hummus è palestinese. Infatti stavo anche per dire, se non fosse che forse io tifo per il Libano, in effetti. Cioè, lei è libanese di origine? Io sono libica in realtà. Libica, vengo libica, dalla sì. Libia. La mia famiglia viene dalla Libia, però in effetti il hummus è proprio il piatto, da una parte conteso, ma è anche il piatto che da una parte ci unisce tutti. In Israele non potremmo vivere senza hummus, cioè è proprio un sapore che fa parte integrante della cucina di tutto quel territorio ed è un piatto di tutti, quindi avrei detto istintivamente l'hummus. Fidei, invece qual è il piatto ebraico che lei ama, proprio dal punto di vista della cucina? Sinceramente non ne conosco piatti, o non mi ricordo i nomi. Ho mangiato delle cose, ma tipo al ristorante a Venezia, però non mi ricordo. Una risposta no, diplomatica. Sì, no, guarda, questa è veramente una domanda difficile da fare. Non mi ricordo un nome. Va bene, sono molto contenta di avervi unito. Mi piacciono tutti, ecco, poi sono tifo tanto per la polenta accompagnata a qualsiasi cosa. Adesso benissimo. Se non altro io e Cide potremo visitare i rispettivi blog e conoscere meglio le rispettive culture gastronomiche. Benissimo. Grazie a Fide Abu Antia e Benedetta Jasmine Guetta per essere state con noi. Buona serata. Buona serata, grazie. Grazie. Smile, no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. It's not just a battle over land. I'm here to lift the lid on another war raging in the kitchen. that this war has no soldiers, bullets, rockets or tanks, just chickpeas and hummus. It has all the usual suspects, Israel, Lebanon and Palestine. I think that hummus is an Israeli food. What? Hummus Israeli? Hummus is a Lebanese invention. And I have this mad idea. Could a regional love of hummus be the recipe for peace in the Middle East? When you eat together, you can't betray each other. The lamb will dwell with the lion. Hummus makes love, not war. Una ricetta per risolvere il conflitto israelo-palestinese non c'è, ma noi insomma questa sera ci abbiamo provato con ironia e leggerezza. Vi do appuntamento a sabato prossimo alle 23, sempre sulle frequenze di Radio 24. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. You've got to give a little. That's the glory of love.